a barca al porto. Carlo Pottiche. Carlo, Carletto Pottiche. Carlo, 69. I cinghiali a Sassari, i delfini anche a Cagliari adesso, stavo leggendo che anche in altri posti in Italia stanno apparendo i delfini anche nei porti, la Laguna Fenice è limpida, insomma, c'è anche la parte buona di questa cosa, dai. Io sono su per vedere i delfini, ogni mattina accompagno la sirena in vocazione del porto, ogni mattina, ci vediamo praticamente quasi tutte le mattine. Dai, sono cose belle, dai, non è che... meglio di certi umani, dai. Ci sei, Jay? Sì, sono qua. Ecco. Oh, via. Cazzo, adesso si è alzato questo vento, cazzo, allucinante. Ma amico tuo o insomma o uno sconosciuto? No, è un amico mio, ci salutiamo ogni giorno così. Ah, ecco, bene meda. Oh, yeah. Mi sapete che stavo controllando una cosa. Niente da fare, dai. Stavo dicendo che è scesa anche parecchio la temperatura. Sì, c'è fresco, ma gli ultimi colpi di coda, poi non verrà forte. Speriamo bene, dai. Cazzo, è abbassata di brutto, cazzo, la minima a 3 gradi, cazzo, crocro. Oh, yeah. Ti credo che sia veramente la bizzicheggia così. Tutti si rimane in casa, perché non c'è più in casa, no? Imbarcato o sbarcato? Imbarcato, gente salta che sta portando qua. Ah, ma con queste nuove norme, cioè, non credo che possano lasciare l'isola, a quanto ne so io. Eppure è imbarcato. C'era anche qualche tedesco, ma c'era anche qualche camper di Sassari. E ci hanno andato via, ma mi ha impulito di dare il mio più. Oh, yeah. E dove vanno a svernare, cazzo? Se ancora, cioè, per andare al caldo dovrebbero andare in Spagna, ma insomma... Poi ancora la stagione guida. Sì, vedo la casa, non devi andare su, così non c'è cosa, ce la possiamo fare più autoistico. Stavo guardando un video girato a Bergamo, cazzo. I vigili urbani strisciando verbali, cazzo. È sceso un tipo, cazzo, da... li ha cassati male proprio. No, negativo, le macchine sono entrate in un parcheggio e hanno iniziato a strisciare verbali così. No, le macchine. Ah, le macchine. Questo li ha visti, è sceso e li ha cassati di brutta. Vediamo se si affaccia qualcuno anche stamattina, dai. Vediamo un po' se sta c'era Gachiduno o è ancora Guru Gabidale attaccato a faccia. No, quanti fa? Sono 9 minuti, che sono? 10? 10:07. Non passa più che mangiarlo. Dopo vado a controllarmi l'antenna sul tetto, che con questo vento... Con questo vento non si sa mai. E cosa vuoi fare? Vabbè, tanto non mi costa niente salire e dare una sbirciata. Quindi oggi hai deciso per la storia della radio dell'Uranus? Non so più. La mia radio è già scarica. che ti sei, cioè, ho visto che ti sei già messo d'accordo con Claudio, quindi no, era giusto per vedere se poi ti eri deciso o meno, capito? No, mica Claudio non vuole una radio, figurati, non ha bisogno di quella radio lì, Claudio. No, per un'altra cosa ho Claudio, per il tempo. Ah, perché boh, mi è sembrato di capire, cioè che Claudio ti ha detto, vieni qua, te la scegli e ti la pigli. sì, è così, ma per un'altra non ho preso niente durante. Ah, ok, allora ho capito male io, dai, no. Ho preso una bacchia, dai. Ti volevo dire, ecco, magari quando se entra qualcuno vediamo un po' se c'è qualcuno che c'ha qualche antennino carino. No, dico, più che apparato, adesso volevo vedere se c'è qualcuno, magari c'ha qualche antenna migliore di quella che ho, boh. Almeno a provare una 5 ottavi, qualcosa di più grande rispetto a questa, cioè che questa va benissimo, per carità, va bene, però giusto per provare qualcosa di più serio, dai. Daniele mi aveva prestato la Ringo, però con l'antenna già di suo, con l'umidità ha già dei problemi, c'è un sacco di stazionarie. Quando funzionava bene si sentiva la differenza rispetto a questa, perché chiaramente quella forse era quasi una 5 ottavi se non sbaglio, in ricezione si sentiva, anche in trasmissione. Poi il problema è che c'avevo un sacco di stazionarie, e anche se la regolavi, cercavi di abbassarle, poi come quando c'era umidità proprio si arrivano di brutto. vabbè, cazzo. Faccio quella di macchina, quella grande, quella che ci ho piazzata prima della boomerang. Cos'è? Sarà un 1,75 m. Boh, credo che sia. Cos'è? Vedete, resina, boh, materiale plastico. È usata, però già funziona bene, dai. L'avevo proposta a Nicola, ce la voleva per piazzarsela sul terrazzino. Anch'io ce l'ho un altro 2001, ce l'ho sul furgone, è alta, 1,80, una cosa del genere, non vedo una. Quella già va bene, sul terrazzino magari questa sottino un pochino. Questa che ho io è, vabbè, c'è il mollone sotto con lo snodo, è nera, è 1,75. Sì. Infatti questa qua era montata su un vecchio camper che c'era dismesso, ho staccato questa e ho staccato l'altro baracchino, quello, il baracchino che c'era sul camper, quello con cui stavo modulando qualche mese fa, prima che Marco mi desse questa, quel 40 canali anni 70, dai. E quindi ho preso baracchino e l'antenna. No, è posteggiato lì in un armadietto, funzionante, l'ho attaccato anche qua, l'ho attaccato qualche giorno fa, no, funziona perfetto. No, negativo, era il camper di un amico che praticamente doveva disfarsene, praticamente non era un camper, era un motorhome, un vecchio motorhome dell'Arca, se non sbaglio, con una base Ducato, credo che fosse roba anni 80, però aveva il motore fuso. Vabbè, non l'ha dato personalmente a me, l'ha dato l'ha regalato a questo amico e poi l'abbiamo portato in campagna e è stato fermato chiaramente, messo a livello, visto come abitazione temporanea, dai. Io glielo ho detto, anche doppio room mi sembra che gli abbia fatto una proposta, mi sembra che ce l'abbia anche lui un'antenna simile, basta che si compri la base magnetica o una staffa e se la attacca alla ringhiera del terrazzino, almeno non sta a fare dentro e fuori, ragazzi. Attacca il piede, buh. Ci parlavo io con te con l'antenna di macchina, ti ricordi? Vabbè, ti arrivo con basso, però almeno ci sentivamo. È chiaro che c'è anche quella differenza, però sono sicuro che è anche basso, però sono sicuro che ti arrivi. L'antenna ci vuole, utile, uno ha un baracchino potente ma quando non c'è l'antenna, ci vuole, inutile. Vabbè, comunque sono riuscito a saldare il LED che ho detto, dai. E su di chi se lo rilascio una borsa, ci devo sempre provare e poi alla fine ci sono riuscito, dai. Sono a buon punto, ma ne manca un altro. Perché sono talmente piccoli, poi il saldatore li scioglie, capito? Ora proprio da leggero glielo devi passare e glielo saldi. Perché di una TV sono bruciati, poi gli altri vanno a lavorare male. Adesso gli saldo l'altro e gli attacco le secche, le strisce di LED e così riparo anche questo. Bene, Giulia. È venuto un amico l'altro giorno, c'avevo un sacco di roba di cui mi dovevo disfare, trasformatori, piccoli alimentatori da portatile, due schermi di portatile, del vento, le ventoline, cazzo, da giù da giù, boh. Un trasformatore di una roulotte, cazzo, poi cosa l'ha aiutato? Ma non mi lamento. Comunque, ho levato un po' di imbarazzi e niente, piano piano sto facendo un po' di pulizie. I trasformatori che si montano sulla roulotte, no? Col commutatore 220 e 12. Cazzo, bello maduro, bel trasformatore. Era di una vecchia roulotte, adesso non mi ricordo che roulotte era. E E niente, ce l'avevo qua, non... era bello grande, non me ne facevo niente del villaggio di Grado. Quello che si è fatto, io quello l'ho ripetuto con il campo, perché non c'ero. È un trasformatore da 12 volt, però si chiama Magic. Ma l'inverter stai dicendo? L'inverter, esatto, l'inverter. No, negativo, no, questo non era un inverter. Questo era praticamente un vecchio trasformatore che montava un roulotto, no? Attaccato praticamente all'alimentazione della roulotte, praticamente potevi scegliere a seconda di che tensione volevi usare. Aveva il commutatore 12220, infatti alcune lampadine erano all'interno, erano 12 volt, poi altre erano 220, sempre nella roulotte. E niente, ha giubilato e l'ho staccato, intanto non serviva, visto che nella roulotte dove stavo mi son fatto tutto l'impiantino piccolino con la 220, sia prese che le luci. E niente, non me ne voglio nulla, ho preso e gliel'ho regalato, dai. Oggi è tosta, vento freddo. Ho aperto la finestra poco fa e non faceva. Oggi viene la cantarà, se c'è Riccardo Lucani, il tuo malzano, lì sei mezzo, me lo cantarendo, era due ore che ti gira, chissà. Io muoviti, fai bisogno per te ne vai dentro, perché io lo so, non l'ho mai lasciata, e mai la lascerò. E poi che è un cane che fa, c'ha bisogno, poi annusa da una parte all'altra e poi se ne va a casa da sola. Che cane hai? È piccolino, uno Yorkshire. Ho capito. E io un chihuahua e un dog argentino. Con la lente, c'ha 12 anni, tutta bombuglioni è sotto. E il mio chihuahua ne ha 11. Ha preso tutti i libri. Ma chi ce la virà ancora? Grazie a Dio virà a tutti. Diciamo, mi dicevo di tutti. Adesso diciamo che gioco forza, sono qua. Ero 3 anni in campagna da un amico, però poi, come si dice, le cose sono cambiate, insomma, per causa di forza maggiore sono dovuto rientrare, dai. Si stava troppo bene, sì, altre ciò, beh. La mattina mi alzavo, ero in mezzo alla campagna, facevo colazione, andavo a portare le pecore su al monte. è già stata una bella esperienza, dai. Come si dice, non è perfettamente così, dai, davo una mano comunque a mio amico che c'ha la fattoria lì. È tutta un'altra cosa, cazzo, infatti come sono rientrato in città, cioè sono rimasto scioccato. Mamma mia. Mi ero abituato bene, dai. È una campagna bella, se ti rialzi è bella, poi la mattina ti alzi e respiri un'aria diversa. A voglia. Guarda, si vedeva. Il posto è appena usciti dalla corte Palmadura, in alto, praticamente zona Monteforte, non so se conosci. Zona Monteforte, non so. Lì una bella stazioncina, una bella antenna, due baracchini, non so come arrivi la presenza. Guarda, infatti, c'è... quando salivamo su in punta, dall'altra parte si vedeva tutta la costa, sino a Stintino, Portoferro, insomma, si vedeva tutto. E poi dall'altra parte Asinara, Boscio d'Orra, e chi più ne ha più ne metta. E tu un'antenna di lusso, un'altra una mia, di lusso, tranquilla, un apparato c'erai, un microfono c'erai, non so come. infatti lì a Monteforte, attaccata a Monteforte, c'è il radar dell'aeronautica. È un bel posto, dai. Ci sono rimasto affezionato. Insomma, isolato quanto basta, dai, poi c'è Palmadura vicino, si avvicina all'Argentiera, quindi si avvicina alla corte, sei in mezzo, è tra praticamente Targhera e Porto Torres, sì. No, la moto ce l'avevo lì ma non la usavo, mi spostavo con la macchina, o con la mia, con la macchina del mio amico, dai. Mi spostavo solo quando ne avevo necessità, capito? Quindi poi per il resto, sai, si usciva, solitamente si usciva giusto per fare la spesa, per prendere quelle due o tre cose, poi per il resto la macchina già rimaneva ferma, dai. Sempre spuntini? Sempre? Sempre mettere spuntini? No, vabbè, e cos'è la vita quotidiana, no? Cioè, spuntini sì, ogni tanto, vabbè, già lo sai, no, come la vita in campagna com'è, non è come la vita in città, ragazzi. No, il mio amico c'ha il terreno, è della famiglia, cioè l'azienda è della famiglia, lui c'ha le pecore, c'ha l'impianto di mungitura e tutte cose, insomma, è bello grande, eh. Io ho capito, ma tu non vedi, sono solo, abitavo nel tuo amico lì. Sì, la casa risulta, insomma, a qualche metro di distanza, non è, eravamo un po' di persone, dai. E adesso siamo qua, di nuovo a Sassari, ragazzi. Ehi, qua. La mattina mi svegliavo, c'erano le tortore, le cornacchie, ribidisò, cardellini, quella di tutto. E poi, vabbè, lo scampanale delle pecore. E poi per il resto niente, rumori molesti non ce n'erano, allora. Sì, io lo so, io non ci tornerò più a casa di madre, se sono nel posto di città, non capita più. È un delirio, va. Adesso vabbè, diciamo che a livello di traffico in questi giorni è un'altra cosa, però... cazzo, è un delirio, ragazzi. Immagino, e qua il corso qui che è una matessa cosa, è abbastanza trafficata, quindi poi c'è Sirio. Tutto di più, dai, è abbastanza trafficata, quindi capisco quello che stai dicendo. Positivo. Però già si sente tutto. No, io qua prima avevo il campetto a calcetto, confinati, sentivo le partite, ma non mi sono tornato, adesso il campetto hanno chiuso, mi stanno prendendo. Non c'è neanche più il problema. Vabbè, a me erano rumori limitati, cioè rumori. Roba piccola, dai. Mi ricordo prima che le ferrovie dismettevano praticamente il trasporto merci, cazzo. Cioè, c'era, partivano, arrivavano, cazzo, treni, cazzo, carichi di merci, no, sai, poi piano piano hanno smantellato tutto, e da risinco in mezzo, cazzo, locomotori, andando nei torrenti, cazzo, ne ha brutto, poi vabbè, hanno hanno stoppato tutto. Adesso si sente giustamente il Sirio, vabbè. Gli altri, sia quelli a scartamento ridotto, Alghero, il treno di Alghero di Susso, ma adesso con i nuovi treni sono abbastanza silenziosi. Prima con le lettorine dovevi tenere questi, le finestre chiuse, perché sennò ti ne entrava tutto il fumo di rugasole e tuo gas. Vabbè, ma adesso le... No, vabbè, in questo periodo di meno, però durante, come si dice, durante un periodo normale già viaggiano, dai, poi ci sono con le scuole aperte, sì, ma fanno meno casino degli altri, cioè, adesso i treni nuovi sono è un'altra cosa, dai, già più silenziosi, non fanno fumo, cioè, è un po' più tranquillo. Ah, io abito in quartiere. Sì, ti segnerò più le balle, questa che sta sopra di me sta sempre spostando mobili dalle 3, dalle 4 del mattino, alle 5 del mattino, passeggenti. No, negativo, no, non siamo in condominio. Ognuno, abbiamo abito a piano terra, non so se sai dove sono le casette in Canada, io abito lì. Le casette in Canada? Al monte comunque, là, monte alto. Ma intanto io ho frequentato molto il Piano Valdetta, non c'è niente. Che sta fischiando avanti? Sì, sì, sta uscendo benissimo Antonello. Avanti Gianni. Caparrosmetro, ciao Antonello, buongiorno. Oggi ti sento meglio. Santiago 4 e Radio 3, dai, oscillate 3-4. Quindi qui arrivi così, dai, comunque riesco a sentirti e buongiorno, dai. K Roger, ma stai uscendo liscio con la radio, Antonio? No, volevo dire, sei liscio nel senso che c'è solo la radio attaccata, sì. Bene, almeno ti si può ascoltare, perché qual è? Nei giorni scorsi proprio non ti sentivo, cioè perlomeno io qua non sentivo proprio per niente. KK, ok. Tu OJ, Antonello l'hai sentito? Non per niente. E tu Lu? Sì, segnale 2-3, però la radio è bella, ascolto bene. Anche qua Santiago 3 oscillante, forse riesco a sentire meglio anche perché si è abbassato un po' il QRM e niente, almeno riesco a capire cosa dice. Andavè, dai, già siamo qua Antonio, avanti tu. Io sono qua, riprese ancora con queste cose, dai, riprendete voi. È stato un po' un mollo, che non so quanto è rimasto l'entrata in manna, dai. Vabbè, almeno un po' sono impegnato, dai, almeno mi passa la dice, no, la sarà in casa, così, ui. Genio. Sì. Sempre greccare, ciao Antonio. Sì, ascolta. Sempre greccare, no? Cazzo è forte adesso, Minchia, sta tirando un bel qua. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao già, buongiorno. Sono qua a Boccanzi, mi sto organizzando. Mi sono rotto le balle a casa. Dovrebbe calare in casa serata. Vabbè, domani gli ramai calare d'oro. Boh, stavo guardando il meteo, mi sa che ce n'è anche ancora per domani. Di greccare, poi dovrebbe cambiare. Sì, ma non come oggi. Cazzo, ma è un freddo. Minchia, sono uscito, c'è una perturbazione. Prima gennaio, no, freddo ragazzi, qua nelle alture c'è un po' di freddo. Speriamo che cari, avevo un po' di lavoretti da completare sul tetto, ma con questo vento non si può andare. Sicuri io. Va bene. Lo sto uscendo bene, 9:15, radio 5 un po' più basso del solito, dovreste usando pochi watt, però va bene, la radio è bella. 90 già riprendi. Ehi, ehi, sì, lo stavo dicendo Antonello che oggi riuscivo ad ascoltarlo, mentre gli altri giorni no, oggi almeno riesco a sentirlo. Sì, mi stava dicendo che stavo facendo con quasi 3 watt, 2 watt e mezzo, figurati. Vabbè, dai, meglio così, almeno riusciamo a sentirci, dai. Avanti, G. No, andava meglio prima. Sì, l'ho avuto io, quello marrone. Sì, una bella radio, bella massiccia, bella pesante, farfalla, 23 canali, SSB50. Sì, l'ho avuto io. Va bene, sono dei bei vintage quelli. Vanno benissimo. Quelli con l'MB più 5, più 4, col panel più 3 viaggiano bene perché sono a PLL, quindi viaggiano. Va bene, lascia tutto così, dai. Li prendi, Eugè. Sì, ha detto che Antonello ti ascolta comunque. Mi ascolta. Io non riesco a sentire. Quando passa sì, roba di scarica che mi arrivano dentro il baracchino. Ciao Antonello, si è abbassato. Rispetto a ieri si è abbassato. Ieri era veramente molto alto. Freya, anche qua da me si è abbassato di brutto. E anche per quello che riesco a ascoltarti meglio, dai. Senti un po', e io invece come ti sto arrivando? Genio. Ehi, stavo chiamando io. Volevo vedere se eri ancora. Se eri ancora lì in radio, dai. KK. Mi sono salite appena nelle stazionarie, ma pochissimo, però appena sono salite. Natalino, buongiorno anche a lei, dai. Ciao Gianni, buongiorno. Oh, stavo incontrando lo strumento, mi sono salite appena di stazionarie, ma poca roba, dai. Probabile, ma dico, sono fesserie, però lo strumento, un cc si è mosso, dai. Niente di preoccupante, sono 1.2 oscillante, dai. Considerando che questa antenna è già di suo, cioè, non è che ce l'abbia così bassa le stazionarie, dai. Chiaramente come sa quei canali già si abbassa. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Come andiamo? Buongiorno Gianni e Natalino, buongiorno. Ciao Eugenio. Buongiorno, io sono qua comunque, sempre in ascolto, sto facendo cose, ciao Gianni. A chi sei disperso nella stanza? Mi sembri dentro una chiesa. Perché oggi ho deciso di fare la messa, ma sono un po' lontano dal microfono. No, infatti, si sente, ciao Natalia, buongiorno. Soffia, anche oggi soffia il vento, non ti preoccupare. Soffia anche stasera, scenderà sulla tarda serata, ma penso che poi vada a maestrare di nuovo. Vabbè, ma è freddo, cazzo, c'è freddo. Sono uscito a portare il cane, c'è un freddo a cagarsi. Visto che mi hanno fermato stamattina i carabinieri. E beh, cosa ti hanno detto? Che non posso andare oltre i 200 metri da casa. L'ha già detto, guardi, da qui a casa ci sono 100 metri. E me ne da casa andare. Ma io sono, vai via subito, se le 19.30 Antonè, è aumentata anche la radio. Via Sassari, 9 più 30, segnale più alto, se uguale a Marco Condor. Prima di 9 e 10, adesso sì, 9 più 30. Passa in onda, Antonio, buongiorno. È un bel abbinamento, Antonio, usalo così attaccato, così non hai problemi, ti ascoltano tutti. Bellissimo abbinamento, bella radio, bello tutto, vai, ok, avanti, oggi riprendi tu, io rimango in X un attimo, poi ci sentiamo. Santiago 3 oscillante, sei passato a Santiago 9, radio 5. Natali, come ascolti Antonello adesso? Io ascolto bene Antonello, non c'è problema. Non lo so se lui ascolta bene a me. Ciao Antonello, buongiorno. Ti ho sentito col Galaxy Ti ho sentito col Galaxy, qua hanno fatto danno, avrei culo a terra anche l'uno. In pratica ti ho sentito col Galaxy da MB più 5 e non c'è paragone con la radio che stai usando, te l'ho già detto mille volte. Non stai uscendo Gianni, quella radio vuole usata, tu sei sempre con la Mattesi, usa il Galaxy, manca a paragone cazzo, con la radio chiusa con l'Ecco, manca a paragone, vabbè, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Nuovo punto a capo a quella radio, Non stai uscendo Gianni? Io dico una cosa, avendo il Galaxy per la 27, non avendo anche altri baracchini come a lui, io avrei usato il Galaxy in 27 con l'MB più 5. C'è una modulazione senza offesa per nessuno che non ha nessuno, molto bella, molto molto bella, a me piace tantissimo, invece lui continua a usare il baracchino con l'Ecco, io avrei usato più il Galaxy. Gianni, non stai uscendo, cosa hai combinato? Stai uscendo, questo perché non ascolti Zio Claudio, la radio va usata. No, non ci siamo, non stai uscendo, il mondiale che c'è la radio. Tu l'hai mai sentita Gianni col Galaxy? Non mi sapete, io parlo in faccia, non ho peli nella lingua, io avrei preferito usare molto meglio il Galaxy, bellissima radio, tutto, per stare un piccolo baracchino con l'Ecco, ogni tanto l'avrei fatto girare, ma avrei dato priorità al Galaxy, invece lui sta dando priorità sempre allo stesso baracchino, non lo so, sono delle scelte che si fanno, io la penso così, io ce ne ho tre della Kenwood, adesso stamattina sto usando il 430, stasera uso il 140, domani uso il 440, li faccio girare, ma non cambia niente perché la modulazione è sempre quella, ma lui che c'ha una bellissima radio continua a modulare con quella, alla fine la radio si guarda allora. Doppio room, è room, dici, tu sei room. In uscita sul lineare, sì, però non è. Praticamente avendo una valvola devi fare il massimo accordo della nudica, altrimenti non va bene. Quindi lo sai come si fa, no? Il massimo accordo sullo strumento che hai. Se lo tieni a metà non sei accordato bene. Quindi la valvola lavora al 50% e lavora anche male. Esatto, massimo accordo sull'illuminato praticamente, sulla lampadina, io non ce l'avevo la lampadina, io ce l'avevo il modello vecchio, quindi andavo sul massimo accordo della lancetta dello strumento, ok? Ma più o meno è la stessa cosa. Esatto. Devi fare così. Massimo accordo sullo strumento, c'hai lo strumento, mo vedo il manopolone, vai sul massimo accordo, quindi sui massimi watt che ti dà lo strumento, oppure sull'illuminazione massima che ti dà la lampadina. Ora? Sì, sì, non succede niente, non succede niente. Chi è che ha parlato? Gianni, tu sei? E io, sono io, là. Ho tolto l'eco, bene ti va. No, ma non è questione di togliere l'eco, Gianni, a me per carità non va a prendere un consiglio che io ti do. Io personalmente, avendo una radio Galaxy per la 27, avrei usato quella. Le altre le avrei usate ogni tanto, ma la priorità l'avrei data al Galaxy. Non è che a me mi dai fastidio con l'eco, per carità. Era una mia opinione. No, Claudio, io lo uso sempre il Galaxy. Ogni tanto attacco gli altri per scaldarli, ma io stavo usando il Galaxy anche quando tu mi hai detto che uscivo meglio col Galaxy. Stavo usando il Galaxy. Io non ho mai avuto le MP5 col Galaxy, ma ho avuto sempre il Sadelta, quello che mi aveva dato Stefano, per intenderci. Io gli avevo dato le MP5 e lui mi aveva dato il Sadelta. E per il Galaxy non viene, va benissimo per il Galaxy. Sarà partito qualche componente, dai, lo so, questi apparecchi, cazzo, della cosa d'angolo si fa scialata, adesso mi sto rompendo le balle. Me ne prendo uno di quelli seri e basta. Già, però tu mi insegni che io te l'avevo già detto da tanto, io Galaxy ne ho avuto 4, purtroppo anche a me piace usare il K e quindi rimaneva sempre spento. Alla fine sono andato a accenderlo e stesso difetto di quello lì, non andava in trasmissione. E l'ho venduto così, l'avevo venduto a Nino quello di Ozieri. Capito? Nino quello di Ozieri. Quindi sono in conferenza con un amico. Se mi stai ascoltando ti ringrazio vivamente, magari mi piace un sacco quella cosettina lì. Tra l'altro ce l'avevo, non ce l'ho più, ho dovuto dare assieme a una radio che ho venduto purtroppo. Va bene Gianni, no, ma per carità, puoi lasciare l'eco, puoi lasciare tutto, quindi in pratica quello è successo nuovamente come prima. Non so, prima usciva l'FM, adesso non esce manco l'FM, perché io ti ho chiamato dall'FM e tu mi hai detto no, non stai uscendo già. Ho provato io ad andare in FM quando voi stavate a parlare, ti ho chiamato e tu mi hai detto che non stavo uscendo, quindi non esce manco l'FM. Ma ieri può essere, scusando il question, ma ieri può essere che io ti ho sentito col Galaxy? Sì, ero col Galaxy ieri. Cioè che la radio, una di funziona, la mia non funziona. Non lo sai come sono, le radio adattate sono così, possono partire i componenti perché sono usurati e partono, poi io sono stato tanto tempo che non entravo, il periodo che non entravate nemmeno voi, io non entravo, voi magari qualche volta entravate, ma io non ci stavo più entrando perché accendevo, non sentivo mai a nessuno, quindi ho lasciato perdere per un po', la verità, ha fatto altro, ero occupato per altre cose, quindi ho mollato un po', quindi è stato un po' fermo, capito? Il problema è quello. KK, peccato veramente, è una bellissima radio, io ho sempre detto e continuo a dirlo che la miglior radio per la 27, per come è strutturata, per come è fatta, per la bellezza che ha, per il funzionamento che ha e per tutto è il Galaxy. Gli altri sono dei bellissimi baracchini, però il Galaxy già è una radio molto, molto più avanti rispetto ai baracchini anche di ultima generazione, tutto qua. Va bene già, e cosa vuoi ti dico? Per me puoi usare la radio che vuoi, lo sai, non me ne dà fastidio, però io ti ripeto, poi in QSO così da salotto il Galaxy col microfono che hai è favoloso, io ogni volta che ti sento ti ascolto veramente molto, ma molto, molto bene. Ok, avanti Antonè, dai, riprendi tu e fai girare. Thank you. sì, Antonè, ma io non posso stare sempre a rompere le scatole alle persone, no? Non mi va, dai. La persona che me l'ha riparato l'ultima volta è occupatissimo, c'ha tante cose da fare e cose. Ecco, questo apparecchio io non me ne voglio liberare perché è un apparecchio che a me mi piace particolarmente, la chiamo la mia chicca della stazione, dai. Quindi non me ne voglio liberare, lo voglio ottenere, quindi lo manderò a aggiustare da qualche parte, lo darò a Vittorio, lo darò a qualcuno, ma me lo devono mettere a posto. Vediamo, mi giro un bel scatole perché ero contento che l'avevo riparato, è durato poco, probabilmente c'è qualche altro componente perché mi stava dicendo che l'ha riparato, che ce n'erano altri in perdita, ma dice, avrei dovuto cambiarli tutti perché ce ne sono molti che sono componenti che sono già usurati, capito? Bisognerebbe cambiarli tutti per andare bene. Ma ci vuole anche la gente che sappia cambiare i componenti, perché se sbagli o le piste, che salga una pista con l'altra fa un casino. Va bene, facciamo girare, a chi tocca, Natalino riprendi. Un attimo al telefono. Avanti, Lubrofetta. Eia, vabbè dai, alla fine poi già la radio sta funzionando, meglio così dai. Bisogna fargli sgranchire il transistor ogni tanto. cosa volevo dire? Vabbè, rilanciamo a Eugenio, dai. Eugenio, ci sei? E anche se lo devo lampare. Poi ti metti tu sotto la finestra a raccoglierlo. Gli accidenti, i negozi non acciatti, dici, tu si t'ammazzi non acciatti. Oh Claudio, Eugenio ci può dare una mano con l'antenna, vedi, la carica sul furgone e te la porta a casa. Ciao, ma siamo rimasti d'accordo che appena finisce, chi si muove praticamente, che butti in sci e la portiamo via. Vabbè, là. Andave. Stavo scherzando, Eugenio, non oso chiederti un favore. Ma l'avresti fatta a Claudio, non a me? A manca a Claudio, a chiedere a Claudio. Non ti risponde perché sempre ti risponde male. Preferisce non risponderti. Avanti Antone. Grazie Luigi, lei si è voluto col cuore, no? Ha detto lei si è voluto un trattarino col cuore. Senti, tu sono ricco, va? A Claudio che mi tocca. A Claudio, siete così, ho fatto un po' di faccia. Oh, ma la scusa, non mi ascolti a me, sì. A pompa da usare radio. Com'è che si diceva? A Parauli Macchi, a Reci Soldi. È vero. Questa come ti arriva, Antonio, con questa radio qua? L'eco si sente o l'ho tolto del tutto? KK. Ora, e sto dicendo, cavolo, 7, un bel basso il segnale. Ci credo, dai, se non fosse. No, non sto usando un Lubrofen, non sto usando la radio che si è bloccata, sto usando un'altra radio adesso. E quella lì oramai è da portare dal dottore. Ok. Adesso ho capito. No, tra una cosa e l'altra no, ero un po' in confusione, non riuscivo a a farmi un'idea chiara. Dai, comunque dai, già stai uscendo il risotto, dai. Vabbè, ne ho ancora di radio, ne ho altre 3-4, non c'ho problemi per quello. Allora, con una collata devo uscire by fuzza. Sarei sfigato se rompessero tutte di colpo. Allora, noi abbiamo smontato la mia antenna e Claudio la vuole aggiustare e vuole portare tubi tutto quanto a casa sua. Però non lo so per vedere se c'era qualcuno che... perché è lunga, capito? Un po' lunga, il furgone ci sta, in macchina no. Il furgone ci sta, bisogna guardare se lui... Vai tranquillo che già ci sta, non sta dicendo un autista, non lo sa. E vabbè, ci sono abituato a usare il camion grande, la borsa c'è grande, non ho mai usato il furgone. No, anche il furgone OM40. Il tuo era un Ducato automatico, non è come il mio. Il tuo che cos'era? Cos'era? Io ho un Expert, un Peugeot Expert, tu vuoi vedere qual Ducato là, però quello piccolo, con la passo corto. Ma sono smontati i pezzi, capito? Non è che siano lunghi, no, sono smontati. C'è l'ultimo pezzo solo che mi pare non smonta, e tutto il resto è smontato. Vabbè, appena usciamo da questa situazione posso salire, tanto un attimo, usciamo. E allora, è da scendere, ce l'ho messi già in scatole radiali e poi il tubo, l'altra cosa, basta metterci un pezzo di nastro e scendere, non è che... perché chissà capocondominio mi sta rompendo le scatole, addirittura adesso vuole che faccia la lettera che ho cambiato l'antenna, si aggiunge a Giambatta, ma devi informare tutti quanti perché ci sono stati dei furti anche nell'attico, sono entrati dal tetto, quindi c'è una che non vuole che salga nessuno, ma a me non me ne ha fottuto, io come padrone sono padrone io. E vabbè, tu falla, quando ti fai dall'ufficio questa situazione, falla trovare, se non mi porta una cattura, la volevi tirare vicino. No, vabbè, già vengono Luca e Claudio, perché io già lo sai che sono stato operato da poco, non è che posso fare sforzi allucinanti, capito? Non posso prendere pesi adesso. A me che non sarà così pesante perché è alluminio. Se no mi manca, chiama chi su di Ruvercio, c'è scritto su internet che ritira ferro, lo paga pure sul posto. E vabbè, già ci mettiamo d'accordo. Andiamo. Facciamo girare Claudio. Attualmente questa operazione si costa 150 euro. Non sono rimasti d'accordo. Come eravamo rimasti d'accordo? Quella di Marco è corta come macchina. È una macchina di Marino, non c'è problema già. No, no, no, no, cioè, tranquillo. Poi si va a stare a messa la danna, fai chissà che devi fare. Vabbè, sempre di quella di Marino, oggi come non detto, dai. Perché tu metto che quella di Marino era guasta, che non si poteva prendere, se l'altro giorno mi ha detto così che c'era il cambio che non andava. era sistemata. Faccio un sacrificio e vado, purtroppo, non è più come prima. Adesso non ce l'ho io, ce l'ha lei, anche se non la uso, rimane ferma, tanto non posso uscire. Non voglio rischiare il mio meno verbale. Va bene, dai, riprendete che mi chiudo questa TV e ho finito, dai, per oggi basta. KK, avanti Antonello. No, non si è offeso, se no l'aveva detto di figurone, si era offeso. Se lo conosce a casa, il mondo non si caglia. Cosa? Non ho capito, lo Eugenio. Guarda, se ti serve il furgone ce l'hai, sempre dopo che hai finito la situazione. Poi noi ti accordo con Luca o con Claudio, non ho problema. Ehi, Eugenio, grazie per la tua disponibilità. Vediamo un po', se Luca dice che ci stanno nella macchina della ragazza, li mettiamo lì e non ti disturbiamo, ti facciamo salire al portatore, già a posto. Se fossi stato io col mezzo l'avrei fatto io direttamente, ma io oramai ho finito, quindi non posso più prendere i mezzi della ditta. Cavagava. Anda bene, anda bene. A chi tocca, a chi tocca? Uia, c'era Natalino pure, Natali! Attenzione Natalino, ci sei, cambio! Cuocomani! Non entra spesso Pomponi! Eia! Sì, ho fatto questo con la Spagna. Sì, c'è la propagazione sul 39 in FM. Ah, te l'hai portato al lavoro, Antone? Ehi, vabbè. Già ci saranno altri momenti. Albania, Durazzo. Io ce l'ho. KP1000, cos'è? È uno smetto accordatore. Gli accordatori vogliono buoni. Vabbè, ok, dai. Chi c'è rimasto qua? Io mi sono allontanato un attimo. Io Claudio per esperienza ce l'ho la KP1000 a corda, perché quando vuole stazionare me ne portava da 2, me ne portava a 1 e 1. Oh, ma uno di voi c'ha qualche Roswell 3P da vendere senza sciami dammi, che mi serve? Io ne ho uno ed è praticamente fa HF, VHF, UHF, non te lo posso dare. Se fosse stato solo HF te l'avrei dato, intanto io ci ho fatti 230 della Kenwood per farlo, smetterò avanti, metterò l'accordatore, il commutatore dell'antenna 4 e carico fittizio anche. No, già, vabbè, a te va bene così, io non faccio affidamento sulla strumentazione ZG. Sono strumenti che funzionano, ma non ci faccio affidamento. Tutto qua, proprio per esperienza. Perché proprio con uno strumento della ZG, io tanti anni fa ho bruciato un bellissimo baracchino. Quindi, perché le stazionarie me li accordava, però me li accordava solo tra baracchino e accordatore. In antenna non mi accordava proprio niente. batti che ribatti e ho bruciato i finali, quindi non ci faccio affidamento, poi lo sapete tutti, gli strumenti di 3G sono strumenti fatti da Gaddi, vedi, commutatori d'antenna, povero Giampaolo va bruciato 140 col commutatore d'antenna da ZG, quindi non sono affatto sempre buoni alimentatori, altre cose, però non strumenti di stazione, io vado sul professionale, proprio per esperienza vissuta, tutto qua, poi ognuno chiaro ce l'ha e lo usa, però non fateci molto affidamento. L'accordatore d'antenna tanto di cappello, anche a me successo lo stesso, era nuovo, mi andavano le stazionarie fondo scala, non capivo cosa era, attaccavo l'apparato diretto e mi davano un segnale buono, attaccavo il viattore d'antenna e mi dava fondo scala. L'ho aperto, non c'aveva niente fuori posto, era nuovo di zecca, l'avevo comprato da Fusaro. Beh, ce l'ha giù l'ampadugla. Io figurati, dopo un anno stava tagliando l'erba il giardiniere, mi ha citato un attimo, ha detto, questa cosa tua è che è per terra. E l'ha trovato in mezzo all'erba, l'ha fatto volare dal vasone. L'ho fatto volare proprio, l'ho staccato, boom, l'ho fatto volare dalla finestra. Una cosa allucinante, una cagata come quella io non l'ho mai vista, l'aveva fatto a 2, a 3, a 4, addirittura è uscito quella a 5 commutazioni, ma per carità, eri sull'antenna 1, avevi l'altra radio per dire sull'antenna 3 e vedevi lo smitter che andava a fondo scala della radio spenta, ma non te nandi, grandi porcherie, gli strumenti, i rosmetri, i wattimetro, hanno funzionamento, diciamo funzionano, però non è che puoi fare molto affidamento, capito, perché io ce l'avevo, l'ho regalato a Gianni, il Rubroffetta, che fa anche da correttore, però è sempre pro forma, capito, è un segnalatore, diciamo, chiamatelo come volete, non è professionale, però fa il suo lavoro, ma già quelli, ma i commutatori d'antenna non le comprate mai perché sono, vi creano veramente tanti problemi, ma tanti, tanti problemi, che sono sceso apposta da Giampaolo, poverino, era desiderato. Sento più nuda, segnali a zero, sento basso, come una antenna c'è, sì che c'è, ha controllato Gianluca, tutto a posto, e vabbè, adesso quando c'è una porta sono passato, effettivamente era così. Ha detto, ma tutti i cingavi non li arrivi, non commutato l'antenna, dammi l'antenna diretta, attacco l'antenna diretta, una gannonata. L'ha pigliato Giampaolo, se l'ha portato giù a stare bene, ha tutto gatto e gatto. È un casino, il commutatore sì, ma il rosmetro, il mio funziona bene, dico la verità. Non posso dire nulla dai watt che se c'è il watt, metto dai watt dovuti, eccetera. No, funziona bene questo qua, non posso dirle niente, ma il commutatore d'antenna, ti ripeto, anche a me ha fatto lo stesso problema. Andavo a fondo scala, cazzo, proprio come se fosse in corto, l'ho aperto, cazzo, era tutto quanto perfetto, tutto attaccato, tutto fatto. Non ho capito che cosa era nuovo, nuovo, comprato, infatti ho fatto male a non riportarlo e a dirgli che era difettoso. Avanti Antonio. Proprio quella radio lì lui c'aveva il commutatore, no? Non sentiva più niente, perché commutava con quello e 140 che c'ho io, 140 lì, quella guai, ma Giampaolo ce l'ho io e non ha nessun valore, proprio valore che non ci sono soldi per comprarlo, perché come c'ho la radio di guai, ma è Torellai, come c'ho la radio di Carlo Tittano, come c'ho la radio di di Piaggio, o delle radio di persone che ci tenevano tantissimo e rimangono qua. Quella Giampaolo stavo usando anche ieri, esce benissimo, no, bellissima ricezione, nuovissima, tra l'altro è quella che gli avevo dato io, quindi va bene, va bene. No, io ho fatto la non dalla radio, Antonio, le comparazioni con gli strumenti si fanno con uno professionale, ad esempio c'è la T230 della Kenwood, enorme di linea, ho fatto le comparazioni con quello e ci sono sempre delle differenze sia in accordatura che in potenza, capito? Non con la radio, assolutamente. Attaccato prima uno strumento, ho visti 10 watt col per dire col 440, messo a 10 watt, nella T230 segna 10 watt, mentre invece nello strumento della ZG che io ce l'ho, anche un po' semiprofessionale perché ha daghi incrociati, VHF va da 1,3 a 30, poi va da 1,5 a 500 mega, quindi fa sia tutte le HF che le VLU, un po' più professionale quello daghi incrociati. Solo strumento e c'è una differenza di watt, c'è una differenza di watt con la T230 messo a 10 watt, mi dà 10 watt sulla T230, su invece quello della ZG che non mi ricordo che cosa sia, comunque abbastanza recente come strumento, non segna il watt che segna la T230, ne segna molto meno, mi pare che ne segni 7-8, perde qualcosa, capito, proprio perché non è a livello di una professionalità come può essere la precisione della Kenwood, della Ilcom, della Yaesu, eccetera. Quelli Daiwa sono strumenti buoni, quelli Daiwa, Revex, quelli sono strumenti buoni. Comunque, chi ce l'ha va bene lo stesso, però non fateci affidamento al 100%. Sono strumenti che lavorano sempre al 90-95%, però ti aiutano a far sì che tieni tutto sotto controllo, vai. Ma questo qualcosa non c'è, ma ti serve per non stare a attaccare l'antenna e attaccare un altro CB, così il commutatore che ti dà l'antenna dell'altro CB, così. Sì, è un'antenna, è più radio, metti l'ingresso dell'antenna sul commutatore, poi dal commutatore vai a dare l'antenna sulle radio. Io ad esempio le radio, quelle HF sono tutte collegate sulla T230, mentre le altre sono su un altro accordatore, ma non certo della ZG, un accordatore della Daiwa, un commutatore d'antenna della Daiwa, che costa anche un pacco di soldi, mentre la calata, la commutazione elettronica ce l'ho sull'Ameritrong, commutatore americano alimentato a 12 volts, alimentato su, la centralina sopra, sul tetto, stagna, dove attacchi tutte le antenne e c'è una calata unica, e commuto da qua, tutto elettronico però a relè, non buccia di gioco, 250 euro di commutatore. Euro, 100 euro a relè, è della Meritrong, no? C'è in Valiente, la Meritrong, americana, roba professionale. Del commutatore elettronico che c'ho io della Meritrong, che avrei sicuro che ha detto io, se la gatta ha manteghito a 5 vie. Ah, ti sto dicendo che ce ne sono da correre da 100 euro, 100 fili, 200, ma sto dicendo che sono quelli della tua marca, ecco. No, ma quelli sono, non è roba professionale. Questo che c'ho io, abbiamo fatto un passaggio tra me e Fabrizio, lui se l'ha preso a 8, io ce l'ho a 5. Ma è roba professionale, roba, scende il cavo lassù, dalla centralina, c'è un sacco di fili dietro, c'è 5 posizioni, è tutto elettronico, capito? Comandato elettronicamente, lo devi accendere, alimentarlo per darti la commutazione, altrimenti non commuta, e fa da staccantenne per i temporali, tu lo tieni spento, lo metti nel neutro, sopra il relè chiude la comunicazione elettronica e non passano faccio la T230, faccio la commutazione a 4 antenne, compreso il carico fittizio il DUM, dove commuto i 440, capito, il cable, tutto lì. Va bene, ognuno si arrangia come può. Io prendo un radio del genere, se non l'avevo amatore devo usare determinate apparecchiature, non posso bollire un commutatore della ZG o uno strumento della ZG. Non mi dà nessun problema averlo, per carità, perché ce l'ho, però non lo attacco perché non sono sicuro della professionalità e della lettura che mi dà tutto qua. Chi c'è rimasto qui? Io. E poi Eugenio e Luca. Sì, anche la MFG sono buone cose, però non hanno niente a che fare con la Meritrong, è una cosa professionale. Guarda, ti sto mandando la foto, sopra c'è il commutatore dell'antenna elettronica, la luce che vedi addosso è la seconda antenna e gli altri sono chiaramente, si è commutato in 40 metri, quindi la seconda antenna. Quello che c'è sotto è il controbox che fa girare la direttiva, capito? Così ti rendi conto di che strumento, se lo vedi nella foto, che strumento può essere. Che marca è detto che? A Meritrong. Io sento secondo. Ehi, già siamo qua. Allora, vediamo qua, stazionarie. 1-1. Oh, 20 watt, aspetta che stacco. Modulati 60. C'è uno piccolo dalla Spagna sotto, lo sentite? Sì, già lo sentiamo, ma non sappiamo parlare lo spagnolo a quest'ora. La sera, quando ho mangiato bene e bevuto bene, ho fatto. Io sono già, niente, la foto che è arrivata su WhatsApp. Scusa, guarda, è il tuo, no? Guarda le foto, se ci sono. E certo che ci sono, perché non l'hai abbaidata ancora. E prendi, Falcone, buongiorno. Gonta, come è andata la busta di Rovriser? Va bene, attendi, allora ci sentiamo dopo. Vai, Antone. Falcone, lo lascio. Santiago 9 oggi, ma ti oscilla il segnale, è normale lo spostamento dell'antenna, come piega l'antenna, non è niente. No, tu stai dicendo bene, se ti sei attaccato il coso, il cavo, no, non saresti uscito oggi. Sì, Santiago 9 radio 5, alla grande. Tutto sotto controllo. Ok, chi c'è poi? poi Natalino, non c'è più nessuno. Gianni, dov'è Gianni? Io sono qua. Le prende e fai girare, mi allontano un secondo. Ehi, ciao Falcone, ho qua da Sassari, se ne copio, non so se ti sei allontanato, comunque. Cosa volevo dire? Eugenio, come è cambiato qualcosa? Come ti sta arrivando? Non è che il ciclini lo stai dando anche alla radio, no? Bene, merda, bene, merda. No, volevo dire... Claudio, vai, lo strumentino qua è sempre attaccato, sta facendo sempre il suo dovere. Piccolino, piccolino, funziona, già va bene, dai. ZGTM 999. Non smetterò più l'accordatore, fa la sua sporca figura su questa radio, dai. Ma cosa non sta uscendo? Già ti sentiamo, già ne do più room con questo eco. Cassina, con questo coso mi sorprendere già. Sei in FM, Gianni? No, secondo me tu sei in FM. Che sei in FM? Sei puri completamente tu. Ma puri, lo sai di quanto? Quasi di 10. Attenzione, binario 10, se sentite e ascoltate questa piccola volulata, gap. Non la ricomprendi già. Oh, io sono libero adesso, libero professionista. Mi sentite o non mi sentite? Alla grande. Bene, sto andando poco. Benissimo, alla grande, ciao Natalino. Gianni è che, pare una sabonetta, andando a Turrelli. Pensavo fosse in FM. Non mi sa che mi porto anche l'altro, dai, un altro veloce giù. Tanto non mi posso muovere, casi, ma ciappali, mica sciagnezza lì. Tieni zitta, Maria, sua zitta. No, mi hanno fermato i carabinieri, mi Luca. Stavo portando il cane, mi hanno fermato i carabinieri. Sì, vabbè, se già aspetta, dai. Già non succede niente, poi altro non posso fare. Non voglio, poi magari facendo cambio di residenza, di casa, da una parte all'altra, non contagiare mia madre, e poi un casino. No, no, quindi me ne sto qua. Quando finisce tutto, allora esco. Ovvio, esco a fare la spesa, poi rientro a casa. Guarda che nel nuovo muro c'è scritto domiciliato, su cui lasciare la residenza a quella di tua madre e scrivere che sei domiciliato da Marina, capito? Allora posso muovermi. Via. E quando vai a fare le cose, motivi urgenti, se tua madre è ammalata la devi assistere. Non lo sapevo, però quel modulino ce l'ho. Se mi mandi, ti do le mail, me la mandi e poi me la stampo. Basta scaricarlo, Lu. Vediamo un attimino Gianni cosa ha combinato. Gianni, doppio room. No, per il coronavirus. Eccolo e c'è lì. Io quello vecchio. Vale, c'è quello nuovo. Guarda Luca, già c'è anche quello nuovo, stampato nuovo che hanno messo da poco. Fatemi sentire Gianni doppio room a ver cosa ha combinato. Gianni, ma nessuno se n'è accorto che Gianni era fuori frequenza, Antonio e tutti ne si è accorto. Così attaccato c'è quasi 9.30, quando stacchi c'è 9.15, quindi per me è un ottimo segnale, va bene. Poi è chiaro che adesso un po' di pazienza, poi rimetterai le strappe, metti l'antenna che avevi prima lì, che avevi prima nell'altro QTH, la metterai lì, insomma ti organizzi meglio, dai. Numero 6, riprendi. Eia, no, no, Claudio, stavo dicendo poco fa che lo strumentino, quello che mi hai omaggiato, funziona, è collegato e sta funzionando sempre, sta facendo sempre il suo lavoro, mi? No, ma per carità, funziona benissimo quello con la vanozza. Forse uno dei migliori, diciamo, anche perché c'ha il coso dell'accorvatore anche, abbatte le stazionarie molto bene, l'ho provato, ma c'è sempre una differenza tra quello professionale, nel senso se quello ti sta segnando 10 watt, il mio professionale segna 11, 12 per dire, ci sono queste differenze, mezzo in più, watt in più, ma non è niente particolare, è quello che dico che c'è sempre questa cosa, capito? Fa il suo lavoro, certo che lo fa, però non è come quelli precisi, però fa il suo lavoro, non quello funziona bene, lo usavo io anni fa, poi l'avevo messo dentro l'armadio e non l'ho più usato, adesso ce l'hai tu e funziona bene. Vediamo già nel doppio numero se è conveniente, doppio, non stai uscendo. Sei tutto distorto, sei tutto saturo, sei tutto... Boh, cosa hai combinato? Che radio è questa? Che radio? Il Magnum. Ma con chi canta più? Cosa è successo? Antonè? Gianni, il Magno non lo tocca mai, boh. Cosa è giornata tua oggi, Gianni? Mai sentito qualcosa ieri notte? Qualcosa che si è rotta, qualcosa che si è staccata, boh, cosa... fammi capire. Io per esempio non lo sento, poco fa lo sentivo bene. Io quando ho fatto il passaggio senza l'eco, senza niente, era tutto a posto. Lui ha cambiato il radio, ha attaccato il Galaxy e non esce più, mentre prima aveva attaccato Ghillo ed è tutto distorto, sembra fuori frequenza. Blu. E l'ho avuto, FRG 9600, sì, della IESO, ricevettore, sordo, aumenta una grabba e la serrata. Ricordo Antonio, io so solo che per quel ricevitore lì la IESO aveva fatto un preamplificatore da attaccare dietro di 20 dB perché era sordo che era grabba. No Gianni, non stai uscendo, io pensavo stessi modulando col Galaxy, non stai uscendo. Ciao ragazzi, ci sentiamo stasera, ciao. Ciao Eugenio, stasera. Capito Gianni? Non stai uscendo, non hai radio. Sei tutto intasato, tutto distorto, tutto messo male. Cosa hai Ducato? No, si sente solo il beep, boh, basta. Non è possibile, c'è due radio, cazzo. Ieri funzionava la Galaxy, oggi non funziona. A rimane funzionava la Romagna, oggi non funziona. Ma cosa sta succedendo lì? No, si sente la voce piano, bassa, è tutta distorta. Cacchio, io non riesco a capire. Ma anche tu Antonello senti così? Ma io ho commutato le radio, tutte e tre lo sento nella stessa maniera. Allucinante questa radio. Attenzione, ascoltate doppio rum, cambio. C'è un fischio sotto. Spegni l'altra radio. Fammi sentire. E non fare queste prove del cacchio, Gianni. Accendere una radio per ascoltarti. Non va bene. Entra RF, sfasci tutto, sfasci. Buh. Adesso sto uscendo, guarda, 1, 2, 3, prova. Adesso stai andando bene. Oh, va. Che era passato e 10 kHz spostati, sicuramente era quello, perché stavo regolando l'eco, capito? E non mi ricordavo qual era. Però non è attaccare di radio ad ascoltarti già, è un bel pericoloso, mamma mia, gara. Rientra la portante e poi fare danno. Adesso va bene così, guarda, 1, 2, 3, prova. Ecco, lascialo così regolato, non lo tocca più. C'è che da voi di boi, d'ora, manovra e non capiamo niente, lascialo stare così. Lascia l'eco, modula come ti pare, ti piace, fai quello che vuoi, lascia tutto così. Via. Cava. Mi sono combinato il radio, ho toccato tutto il radio e mi sono battendo gli occhi. Vabbè, e comunque sono Galacci, ha tornato a pigliare un maromaro. E adesso rimane lì, c'è la bile a luce, ne ho altri apparati. Sia che la personale è incasinata a pezzo, ci siamo sentiti da poco in... Il radio era incasinato a pezzo, tra turno di lavoro, sto cazzo di coronavirus, la cosa che deve fare, capito? È incasinato a pezzo, quindi lasciala lì poi si vedrà. Avanti, Rubrofè. Eia. Stavo dicendo qua, vabbè, lo stavo dicendo poco fa, forse Eugenio, che questa antenna ha una caratteristica che praticamente non è bassa in stazionaria, infatti come salgo di canale le stazionarie si abbassano di brutto. Adesso qua su 10 ce l'ho a 1.2, poi chiaramente se salgo i canali si abbassa di brutto. Normale, vuol dire che l'accordo è sui canali alti è più preciso, ma non è lo strumento che non segna bene. No, non è... Non sto dicendo che è lo strumento, sto dicendo che è proprio l'antenna che ha quella caratteristica, capito? Che di suo non ha le stazionarie così basse, capito? Ah, ecco, capito. Ehi, va bene, dai, ma no, non è un problema, non è che dobbiamo avere le stazionarie a zero completamente. Quando ce l'hai uno, rapportato a uno, va più che bene. Non è un problema. A me mi si muove, vediamo. Praticamente si muove appena, quindi diciamo che non c'è quasi niente, però appena si deve muovere, non è che deve rimanere fermo. Qua, adesso ce l'ho a 1.2 quasi. Va benissimo, fino a 1.3, 1.4, ma anche 1.5, non fai nessun danno, capito? Se poi ce l'hai a 1.1, 1.2, ben venga, ma non sono stazionarie quelle, non c'è niente. Bene meda. Sì, dai, 1.2, dai, 1.2. Adesso ogni tanto, sai, come col vento, laghetto poco, però tende a oscillare. Sì, ma va, oscilla senza parlare. Io tutte le radio accese, come oscillano le antenne, soprattutto quella delle V e delle U che in fibra, come quella che c'ha Gianni, stesso materiale, oscilla anche lo strumento, si muove anche lo strumento, però non è niente di che, va bene, non vi preoccupate. Ehi, vabbè dai, io raga, io vi mollo, mi sgancio e ci sentiamo casomai questo pomeriggio. Salutone circolare a tutta la ruota e niente, dai, ci aggiorniamo stasera se coincide, ok? Sì, è già, dai, ci aggiorniamo stasera, cordialità e saluti, e mezzogiorno ancora ce n'è da fare qua, tanto io mi sono chiuso qua in stanza, porta chiusa perché loro passano aspirapolvere, balle e cose, si sente un cacchio. Sono qua, dai, se dovete fare, fate, il canale 10 è attivo, siamo tutti qua, KK. Stampando stai Natalino. Ma tutti voi io dici? No, niente, dica se chiami Milano, sempre. Io mangio l'una e mezzo, 2:15. Ah, vabbè, io mangio l'una e pronto. Io mangio burro e pronto, però ancora prima deve mangiare il cane di me, a l'una mangia il cane, poi a l'una e mezza mangiamo noi. KK, cosa c'è qua che si sta muovendo? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Tecnicamente più preparato. Spiegalo a Gianfranco. cosa ti fa quel switch, quell'alimentatore switch. Ciao Gianfra, buongiorno, mi senti? Sì, ti sento, chiaro e forte. Ok, aspetta che levo. Allora, c'ho uno switching, però quelli sono stati strumenti cinesi, no? Sempre funzionato bene, funziona, non è che non funziona. Ma adesso mi sta creando un rumore. Anche se io attacco la presa in camera mia, che non attacco su un baracchino, mi fa questo rientro, questo così, cosa può essere? Ma c'è la ventola? E la ventola è staccata, se attacco la ventola lo fa ancora più forte il problema. Dovete controllare se c'è dei condensatori che sono gonfiati. Spesso da quello si gonfiano e poi non lavorano più bene, fanno questi rumoracci vari, eccetera. Negativo condensatore gonfi, niente, zero. Anch'io Gianfra gli ho detto, guarda che non c'è qualche condensatore che lì vicino alla ventola che è partito, però lui dice di no, che sono tutti a posto. Quel difetto lì lo fanno quando parte qualche condensatore, capito? Può essere però Gianfra, stai attento Lu, che non sia la resistenza che attenua la velocità della ventola. Aspetta un attimo, do un'altra occhiata, aspetta. Perché mi ricordo Gianfra che i switch hanno una resistenza che praticamente attenua la velocità della ventola. Se quella si brucia, la ventola gira talmente veloce che fa un sacco di casino. Ma guarda, ne ho dovuto attaccare uno io e me perché non ho più vicino. Quello della videosorveglianza, mi faceva questo disturbo, non è capato piede, ma l'ho smontato, ricattato, smontato. Niente, questo disturbo fa superava, mi sono messo uno scattato da vecchio del PC e adesso va bene. Quindi quando le prende poi c'è anche qualche integrato che magari si riscalda e lavora male. Ma d'altronde costano talmente poco e conviene tutti di lui. Cioè è allucinante. Un uomo è salito sul tetto del palazzo di 5 piani a Bologna, dove abita, minacciando di suicidarsi, mentre camminava all'indietro è precipitato dal cornicione, sfondando una delle due ambulanze che si erano recate sul posto. Dormirà con un uomo, un padre di 35 anni, si è salvato riportando qualche frattura, ma non è in pericolo di vita. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social. Cazzo, se avete questo video è una cosa allucinante, ragazzi. Me l'ha mandato Giulio. Porca puttana. Claudio, cosa è successo che non ho seguito? A Bologna. Roba da matti. Un uomo di 35 anni a Bologna è salito sul tetto di 5 piani, in parte 5 piani, minacciandosi di suicidarsi. Mi è caggiù davvero, è caggiù di un'altra cappotta dell'ambulanza, l'ha distrutta. Meno male che non è in pericolo di vita, ma dimmi tu, cazzo. Lui, se continua così, gli succedono delle pelle. Si vuole suicidare, non c'è scritto. Perché sto guardando l'antenna e non ho capito ancora come fa a essere in piedi. Qua c'è da ieri sera, ieri notte, tutta stamane, c'è questo colpo di vento micidiale. E se si stessa c'ha pure ragione. La cosa, ma è proprio quella dritta, è da paura. C'ho 510 ore. Qui a 45 gradi, ma fortunatamente adesso il sistema è basso, è più basso di 4 metri, figurati. Poi ho tolto la prelementi, non c'è più niente, tutto pulizia ho fatto il giorno che ha fatto la bellissima giornata di vento. C'era 5 elementi, ma manco la muove perché c'era radiali corti. Quelle là erano da 8,50 m, quindi stava sbattendo a destra e a sinistra, non le metto più direttive, mamma, così mi bagani. Non fa niente. A quelle antenne o Gianfra non lo fa niente. Riprendi con una mattanino, un minuto che mi sposto, che sono chiuso qua dentro, voglio fare vedere se conviene di chi, a che ora dobbiamo mangiare, cosa c'è da mangiare, boh. In tempo è fatto le direttive Claudio, è venuto subito al vento. E beh, Gianfranco. No, vedi già, non è, era un problema, io il problema che avevo è abbassare il sistema. Fortunatamente l'ho abbassato, capito? Adesso il sistema è basso, quindi potevo anche lasciarlo attaccato. Però visto che era bassa, mi sono messo piano piano, l'ho tutta smontata. Mentre ovviamente quella grande, la direttiva grande, adesso c'è quella più piccola, che no, quella non la fa niente. Però il sistema è basso, non mi interessava abbassare il sistema, perché con l'altezza che aveva c'era pericolo che rompesse tutto. Invece adesso non le fa più niente, assolutamente. Però la 510, che è dello stesso materiale della Game Master, flette a 45 gradi, ma non si spetta. Assolutamente. Oramai con la guarda di Sant'Enna. Arrivo subito, là, riprendete con Gianfranco, c'è anche Natalino, è entrato. C'è Gianni Brofetta, mi pare, che ha chiuso, che doveva andare a vedere se c'era qualcosa da mettere sotto i denti, e poi c'è Luca che sta controllando l'alimentatore. Già, dai, riprendi tu con Gianfranco e Natalino, già arrivo subito. Sì, dai, avanti Gianfranco. Niente, infatti stavo pensando a te, Gianni, c'era la mia antenna che stava volando in verticale oramai, cioè in orizzontale, sì, passano certi colpi da paura veramente. Insieme alle altre ovviamente. E la mia già è tirantata, già è tirata, ma non la posso vedere perché da casa non posso uscire, quindi non ti posso dire se è piegata o se è piegata, ma stanotte non ho dormito dalle folate di vento che venivano allucinanti, ma forti però, non so se da te era così, ma qua era una cosa allucinante, non ho dormito stanotte. Da me non può uscire fuori, a parte che si congela, nonostante sia il sole, però è freddo, e poi date i colpi incendiati, ce ne sono tutte e quattro le antenne, anche quelle più in alto che stanno ballando, che non sono incendiate, ma proprio piegate, al limite, se c'è un po' a questo punto, hanno pure ragione. Invece a me mi si è rotto il Galaxy, non esce più il radio, stava funzionando sino a stamattina, poi di colpo mi hanno detto che non stavo uscendo, deve essere partito qualcosa. Si apposta un po' la radio per me, sempre con lei, con l'inziato. No, non è quello lì, non c'entra nulla quello. L'altra volta era una resistenza, era una fesseria costata da 2 centesimi, una fesseria. Con la resistenza che era partita. E sono apparecchi che hanno avuto la loro usura e quindi meno male qualche componente può partire. Comunque, un nuovo decreto adesso può sequestrare anche l'auto, non ho capito. E con il nuovo decreto adesso si possono sequestrare anche l'auto se si trovano in giro. E a me non ci sono quei pericoli, non posso uscire da casa. Hai visto che tutti i mali non vengono per noi. Io guarda, sto pensando di scendere in cortile a mettere in moto la macchina, perché è più di un mese ferma. E non vorrei che poi vada a prenderla e non mette in moto. Però non mi dà cuore a scendere, ci credi? Già fatte, già fatte, anche la mia. Ma c'è morto l'altro giorno, già parte, non succede niente. Parte, è qua. Bisogna vedere, con questo freddo che sta facendo, può scaricarti la batteria se non viene utilizzata la macchina. Io casino, è un bello casino. Qua posso affidarmi solo a mio figlio e basta. Quello adesso sta studiando perché i professori hanno trovato questo metodo di fare lezione al computer, si danno l'appuntamento a una certa ora e tutti gli alunni si fanno trovare in videoconferenza e si fanno la lezione tutti i giorni. E già, tutti gli alunni, sono al primo elementare, tutti gli studenti. Sì, studenti, alunni, come li vuoi chiamare? Vabbè, quelli delle superiori sono studenti, quelli delle medie sono alunni. Io ce ne veniva, grattarci le balle tutta la lì, dobbiamo studiare, è giusto che sia così. Va bene. Allucinante. Sta calando, però non cala questo cristiano, è forte, fortissimo era ieri notte. Fortissimo. Adesso è un po' più basso. Sono grafiche 40-45 km orari, ieri notte superavano anche 70-80 km orari. Ieri notte c'erano delle folate di vento che erano tremende, stavo temendo io. Non devi temere, la tua antenna, no. Tu gli tira la testa con l'antenna, o flette o spezza, no, come la mia, o flette o si spezza in due, non ce n'è problema. Non è il problema che te ne cadi, c'è i tiranti, il tubo. Purtroppo sono le antenne. Io, caspita, se vedi l'alluminio della direttiva da paura, è un alluminio, uno dei più grossi allumini, il materiale che c'è proprio a regola d'arte, la PKW, fa delle cose allucinanti, eppure, già, tu sei basso rispetto a me. Io dove c'erano le antenne avevo un traliccio di 45 metri, che è il palazzo, quindi a 45 metri sono le antenne, in più sono a quasi 300 metri dal livello del mare, fate un conto con giardini alti, perciò le verticali sono tranquillo, ma le direttive qua non è cosa, no? Così grandi, direttive così grandi non le puoi mettere, io lo sapevo già, ho rischiato e fortunatamente... Diciamo che linea di massima il grande danno non ne ha fatto. Adesso poi appena possiamo uscire passa Andrea, si porta via tutto Andrea a casa e controlla tutto, se ha rotto le bobine, se ha fatto danno del genere, però così non si vede niente. Ma ce l'ha piazza Andrea quella? No. Andrea ce l'ha uguale, diversa marca ma ce l'ha uguale. No, la prende lui, la smontiamo, si pulisce, si riassembra, si mette sopra un cavalletto con un tubo e si prova per vedere se tutto è regolare, capito? E poi si conserva, se è tutto a posto, se invece si sono rotte le bobine, si è un po' tutto il gomo. Con Andrea ci siamo sentiti l'altro giorno, si sta mettendo sotto sopra tutta la stazione, smontando il tutto, pitturando, facendo, ma mandato le fotografie. Già me l'ha detto, vi siete sentiti. So tutto, io so tutto, Andrea mi sento un giorno sì, un giorno no, me l'ho chiamato poco fa, però non mi ha risposto, mi ha dato un messaggio che è incasinato. Sì, beh, lì stava diventando un mondettaio, perché lui si mette lì dentro a fare tutto, tutti portano, fanno e non si comprendeva più nulla. Adesso gli ho mandato la foto della mia sala radio, praticamente come farla, perché la sua era troppo alta, gli ho detto abbassati e fai un piano solo e ti ristringi come mi sono ristretto io. Infatti la sta facendo così, la sta modificando il bancone, perché quello lì era troppo alto, capito? E in più sta intonaccando i pezzi che ne sono caduti, mettendo a posto, verniciando, facendo. E almeno ammazza il tempo, perché gli altri lavori non è che li ha tutti finiti, ha i lavori di falegnameria ma li ha tutti finiti, capito? E poi se non approfitta adesso che non può uscire, almeno se fate qualche cosa è passare un tempo. Sì, non c'è in campagna, c'è da fare, non ti preoccupare. Solo lui ha già fatto tutto, ha detto erba, messo a posto, fatto. Va bene. Andiamo a casa Andrea. Molto bella. C'è quella taverna che ogni volta che vado lì cazzo del video, fatta tutta nella roccia, ma molto bella. Molto bella. E io sono andato quando l'altro giorno, apposta, lo sguardo. Via. E vabbè, ci siamo rinchiusi a casa, andiamo a guardare. Spero che non mi tocca l'estate chiuso qua dentro, se no vedo... è un casino. No, io d'estate soffro troppo, l'estate non ce la faccio, sudo troppo, un casino, divento scemo. Dobbiamo sperare che questa cosa si sblocchi, c'è un calo sia di gente contagiata, c'è un calo un po' di tutto, però non dobbiamo mollare la guardia, così hanno detto stamattina, c'è scritto anche al computer. Io spero che entro aprile si risolva tutto il problema e si torni alla normalità, perché da maggio in poi fa caldo, ragazzi, guardate le temperature che ci sono a marzo, fa molto caldo quest'anno, sì, è così, così, è così, purtroppo è così. Dobbiamo vedere un po' cosa si può fare. Speriamo bene, adesso questo vento si busti tutto canto, però manco non riusciamo più con la paura. E qua bisogna che ci mettiamo tutti quanti in riga a non uscire, perché anche l'altro giorno c'erano due ragazze parlando giù, attaccate, parlando, ridendo, scherzando, dandosi i colpi con le mani. Qua stavo per chiamare i carabinieri, ci credi? Mi è fatto male a non chiamarli. La piazzetta lì, Piazza Aldomoro, c'era un paio di giorni, c'era questa graffetta di ragazzi, gli hanno detto una volta, due volte, sono andati i vigili urbani, andate a casa, e adesso qualcuno ci ha rotto le balle, ha chiamato i carabinieri, sono arrivate due pattuglie e si hanno buttate a tutti. Ma infatti dovrebbero agire così, se non capiscono con le buone queste persone, bisogna agire con i manganelli, come facevano prima, con i piedi manganello. No, li hanno caricati in macchina e li hanno portati via, non so se li hanno portati in carcere o se li hanno portati in caserma, a fare belli un po' d'aria nelle celle di sicurezza. Cioè, è gente ignorante, se ti dicono di venire mai a casa, non è a casa. Cioè, abbiamo un divieto noi, 200 metri col cane dobbiamo stare, non possiamo andare manco a far fare la pipì al cane, e tutti per metri, a birra in mano, mi. Seduti lì in Piazza Aldomoro, che lavoro da qua, la piazza, freddi casino, cantendi, badendi, ma dove siamo? Gente ignorante. Capito? Qualcuno ha detto che in Sardegna siamo una manica di asini, è la pura verità, siamo degli asini, perché se non capiamo noi che siamo un'isola, che possiamo essere isolati e possiamo stare tranquilli senza avere nessun problema, nonostante ci abbiano contagiato gli altri, perché ci hanno contagiato gli altri, ancora non abbiamo capito che siamo il punto di forza, visto che siamo un'isola. Ma se non ci tuteliamo tra noi e facciamo gli stronzi, e allora vuol dire ci spetterà un'estate dentro casa. Chi è rimasto qua in rotta? Natalino? Adesso ci sia Gianfranco anche, Luca non so cosa sta facendo. Gianfranco! E io sto anche lavorando nel frattempo, in Smart Walking. Quindi non è che possa fare da tempo. E niente, purtroppo queste cose capitano. Che incubo. Boh, aspetta che riattacco il gas, voglio che se esce. Gianni, ma che sei? Stai uscendo già, sente solo il bip e basta. Attenzione Luca, uscendo. Questo uscendo di radio, cambio. Hola, aspetta. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola. Prova, 1, 2, 3, guarda come sta uscendo con questo microfono, questo apparato. Luca! Cosa già? Prova a vedere come sta uscendo con questo microfono. Che apparato è? Cosa tra? Che baracchino è? Questo è un baracchino che ci avevo di scorta. Aspetta che sono vicino, devo regolarlo ancora. Così, guarda, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, prova. Guarda come va. Non devi spegnere, c'hai qualcosa accesa, c'hai un fischio. Ma il fischio è dovuto... Se no non riesco a regolarti. Guarda. Parla. se sei troppo vicino devo abbassare il mic di... Hola, guarda, 1, 2, 3, prova. No, è troppo alto già, non si capisce niente. Ma dove sei andato a finire? Dove sei andato a finire? Sul canale 10 vieni. Ora, si è spostato, deve essere là. Guarda come sta andando adesso. Mi sono spostato. Adesso sposto il microfono, perché se il microfono è troppo vicino e fischia, capito? Aspetta che provo a alzare. La modulazione. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola, hola, va bene. Modulazione, hola, 1, 2, 3, hola, hola, hola, 1, 2, 3, prova. Guarda Claudio, come va? Barattolosa è già cattedrale, boom, cosa ti posso dire? Questo qua è il microfono che c'avevo col Galas. Ma non è... molto, tonalità troppe alti, boom. Non è una modulazione perfetta, perfetta. Oh. È tutta frusce, boh. Perché è fischia? Perché aspetta, c'è il parlascolta questo qui, aspetta un secondo, devo controllare il nome del parlascolta. Ma qual è? L'Alan 48 quello. Attenzione Claudio, sto uscendo di radio. Eia. Come va? Guarda, lo sto regolando. Come va? Un pelino, tiralo su, un pelino. Guarda, 1, 2, 3. Hola. Aspetta che abbasso l'eco, che se è troppo alto. Oh, guarda, 1, 2, 3, prova. Perfetta, 5 perfetta. Non toccare l'eco, lascialo così. L'eco tira appena appena sul Mickey Gain. No, se tiro sul Mickey Gain è... allora lasciala così che va bene lo stesso. E 5 è perfetta. L'amplificazione si sente? Sì, che si sente. Questo qua è il Cobra, però l'ho utilizzato con le maschere. Il Cobra con le maschere. Non so se sta facendo andare bene, però non lo so. No, va bene, va bene. Ascolta, cosa puoi tirare su ancora? Appena appena il volume del microfono, prova. No, l'eco, guarda, 2, 3, prova. È bella così, lasciala così già. Sembra come l'altro baracchino, uguale. Come da tornare? Eh sì, eh sì. Regoliamolo ancora, perché non è male, non è male già, lo so, io sono schietto. Un pelino, pelino appena appena su di ecco, dai. Guarda, 1, 2, 3, prova. Come ce l'hai adesso? Ma proprio lontano da, dal video, dai, adesso ce l'avrò a... Va bene, va bene. Funziona bene, puoi tirare su anche un altro pelino. La preamplificazione dell'eco, mi tiralo appena appena ancora più su. È al massimo, guarda, così. Allora, 1, 2, 3. Appena appena abbassala già. Hola, guarda. Così dovrebbe essere perfetta, dai. Perfetta, lasciala così, questo è il baracchino che puoi usare. Alla grande. Questo è praticamente quello che diceva che non serviva con il microfono, no, che andava male, che avrebbe bocciato la. Non col Cobra però, detto, io questa modulazione non l'ho mai sentita, questa va bene. No, questa no, perché mi stavo un po' arrendendo perché si chiama, capito? E allora l'ho lasciato prendere, non mi sono messo a regolare, non fanno. Si chiama, quindi l'ho lasciato, l'ho messo da una parte. Ma adesso se va bene, lasciamo. Adesso qua c'è un'altra prova. Ascolta, ma col Cobra mai provato l'MB più 5? Diverse connessioni hanno? No, non ne ho MB più 5, Claudio. Ma non deve dare, Mattarino, ma ce l'ha in campagna e quando sale il suo è che lo prende, dai, MB 4, cioè non mi ricordo adesso. Guarda, guarda adesso, si è aumentato la radio. Sì, sì, va bene. Non la toccare più, già lasciala così. Se metti l'MB più 5 sul Cobra, io l'ho provato il Cobra con l'MB più 5, è una cannonata, eh. Tu ce l'avevi, te l'hai venduto. Scappa, sì, è vero. L'ho venduto perché non ci stava qua, col Galaxy non ci stava, insomma. Era più alto, quindi l'ho dovuto vedere per questo. Perché come era stata la stazione non ci stava. Adesso se io faccio pulizia, vediamo un po'. Non lo so se ci metterò qualche passaggio del bagno, non lo so, vediamo. Ecco, tocca la se non c'è solo che lo dispara, si avvide luci. Solo è buonanotte da fare, devo stare a rompere il cazzo alla lampada, sempre, no, no, non mi fa. No, già, ma no, perché te lo dico io tranquillamente, perché l'ha detto a me, stavamo parlando, te l'ho detto in... in banda amatoriale, mi ha detto che è incasinato presto, c'ha mille cose da fare, c'ha lavori sul tetto da fare, è incasinato presto poverino, la verità, come tu nel lavoro, non può uscire, queste cose, insomma, ha un sacco di cose da fare, capito? E poi ha tolto anche tutta la strumentazione da lì perché deve fare lavori, capito? Non perché non voglia fare assolutamente. Io appunto l'altro giorno stavamo parlando di questo radio. E vabbè, se no quando è libero che non ha niente da fare è stato sempre disponibile con tutti, non c'è niente da dirle su quello. E già, metterlo da parte, con calma si farà, con calma si farà. Io non so manco dove dirti di mandarlo, perché io ho un amico allenatore, ma è attività da Gult, ma non si può andare come fa. Poi è lungo che non mi si immagino, peggio di Vittorio. L'unica è dalla Vittorio, ho fatto la mettere a posto, cosa vuoi ti dica, non lo so, non ce n'è gente qua. Non ce n'è. Prima a Porto Torre, se ti ricordi, c'era Aquila solitaria, Giuseppe Zara, che è morto. Aquila già ci aveva le mani d'oro, davvero. A Porto Torre ce n'è anche uno qui da gioco che sta parato qua a Caere, la roba qua io già. Siamo già andati lì a far visitare qualche cosa. K, quindi ascolta il registro, voglio sentire. Ce l'hai a portare in mano il telefono, la registra? Sì, c'è un break. Fai entrare il break nel frattempo, mi preparo, poi ti dico di parlare, eh? Avanti. Ok, ciao Gianni, ciao Claudio. Mandalo da Albino, a Bonore, e lui li fa queste cose. Se vuoi ho il numero di telefono. Albino, Bonore. No. È una fetteria, è una resistenza sicuramente, l'ha fatta anche la tramonta, l'ha fatta anche la tramonta. Che l'ha preso il Fabrizio, la mattina l'ha preso e l'ha trasformato nel funzionario. Vabbè, capisco, ma tu non puoi andare a ascoltare continuamente il Fabrizio per il baracchino, perché si tratta di una radio, va bene, ma per un baracchino, dai, non lo dobbiamo disturbare per queste cose. Tu lo sai, lui è anche molto gentile, però devi trovare il momento giusto e soprattutto diciamo la disponibilità sua. Io sinceramente per un barattino non lo disturberei mai a Fabrizio, per una radio sì, ma per un barattino no. Dunque tu ti fai accompagnare a Bologna, ci vai tu personalmente, glielo porti, quello è bravo, c'è gente che lo ha mandato lì e lo ha riparato, dunque non è un problema, è il suo mestiere, capito? Però non lo faccio perché ho la testa attaccata al mondo, so che se è abbastanza ingaggiato di lavoro, di cose non sono una persona asfissiante. Già, mica te l'ho mandato, Claudio, ciao. No, ma intanto non è a tempo adesso, eravamo in radio da poco. di queste cose. Ha mille cose da fare su e ce l'ha detto chiaro e tondo, che non può fare in questo momento niente a nessuno, proprio è incasinato, perso. C'è un sacco di cose da fare molto molto importanti. Ciao qua, beh certo, capisco benissimo. Poi con tutto il da fare che ha, da quello che gli era successo, non credo che abbia completato il tutto, almeno per quanto le riguarda, e le cose sue, poi si aggiungono anche quelle degli amici, insomma, questo ragazzo, o meglio quest'uomo ha anche ragione, non si può sempre farlo di impegni così, no. Lascia passare qualche tempo già, poi eventualmente se hai modo di parlarci, me lo chiedi, ma io sinceramente rispetto. No, almeno per un anno non lo vedo benissimo, perché so che è impegnatissimo, lo so anch'io. Va bene, dai, ci vedi già, fai come qui. Vabbè, dai. Signori, io vi saluto, però vai che mi sposto in cucina, che è già l'1:10. Ci aggiorniamo stasera, già, ascoltati l'audio, per me va bene la modulazione, è bella tranquilla, non è burrottosa, lasciala stare così e via. Poi per quanto riguarda il Galaxy si vedrà. Sì, Albino è molto bravo, caspita, sei bravo, è bravissimo, fa baracchini solo, però baracchini, modifica i baracchini, se ne intende, quello che il garage che c'ha Gigi modificato gliel'ha fatto, penso che l'abbia fatto Albino, non lo so. Va bene, ok, cane e altri baracchini mettilo da parte, quello, e poi decidi cosa vuoi fare. Io vi saluto, vi auguro buon pranzo a tutti e ci sentiamo stasera, ok? Ciao! Ok, ciao qua, ciao! Sì, ma è pure il suo lavoro, non è che sia un picco pallino qualsiasi, no? È il suo lavoro, è radio tecnico, dunque è in grado di fare questi lavori, no? Non è un problema. Vabbè, ciao qua, ci sentiamo a tutti, vedrai? Anch'io chiudo, vai, l'1:10, per cui è quasi ora di pranzo, ci sentiamo stasera. Ciao Claudio, ciao Gianni, chiudo, ciao! Ciao Gianni, ciao Giulio, ciao anche a tutti quelli che sono in ascolto su 10. Ciao stasera, ciao. Attenzione, 10, c'è rimasto qualcuno? Gianni, doppio ruolo. Mario 10, se sentite e ascoltate Luca qua, coordinate Sassari, KK. Positivo è K Roger, la cosa è bella, KK. Va bene, va bene. Aspetta un attimo già.